Ciao, io sono Laura Voltolina e questa newsletter è Storie Potenti, DNA e altre avventure. Se mi leggi o ascolti abitualmente, potresti ricordarti che la scorsa settimana ho condiviso un paio di mie idee sullo spritz. Perché in Veneto ci sono nata e cresciuta, anche se mi sento così tanto appartenente al mondo intero, e all'India in particolare, che ci sono rimasta male quando ho scoperto di non avere nel mio DNA delle parti orientali. Posso dirlo con certezza perché ho fatto un test online. Immagina la mia sorpresa quando ho scoperto che dentro di me non c'è traccia di etnia indiana e invece c'è corposa presenza di etnia irlandese, gallese e scozzese. Io, che sono la persona più freddolosa che conosco, e diciamolo, di gente ne conosco parecchia. Poi ho pensato che quei lontani parenti nordici probabilmente si sono spostati a sud perché soffrivano il freddo anche loro. Amo così tanto la mitologia, quella indiana e quella classica mediterranea, ma anche le storie del nord e del Sud America e del Giappone. E sono così vagabonda nel viaggiare in solitaria, nello spostarmi, nel non aver mai fondato uno studio yoga mio, ma nell'aver sempre insegnato in posti meravigliosi, a volte dietro casa, a volte lontani lontani, che ho sempre sentito di avere molto mondo dentro di me. Ma in fondo il mondo è in tutte e tutti noi. Le persone che si spostavano tradizionalmente portavano in giro le loro storie e le storie che raccoglievano lungo il cammino. Il risultato è che i racconti di ogni latitudine sono stati ascoltati, vissuti, respirati per generazioni, anche da chi non aveva idea di cosa fosse un deserto perché abitava in una foresta, ad esempio. A me, i miti del mondo hanno insegnato che le storie riflettono il modo in cui l'energia si muove nella natura, nel corpo e nell'universo. Ho unito i miti allo yoga da sempre perché yoga e mitologia è dove ci rendiamo conto che le storie sono vive dentro di noi. Lo dicono anche le neuroscienze, eh? Le storie sono collegate alle onde cerebrali e attraversano letteralmente il nostro corpo. Hanno la stessa natura energetica del corpo. Hanno una pulsazione dinamica e vitale. Yoga e mitologia ci aiuta a sentirci a casa in noi stessi e noi stessi. Ad avere forza nel cambiamento. A rendere il quotidiano più significativo. A trovare le nostre risposte interiori. È così. Tutti i giovedì di novembre, compreso quello del mio compleanno, perché guidare un incontro di yoga e mitologia è un modo fantastico di festeggiare. In diretta, dalle 19.30 alle 21 e con la registrazione a disposizione per una settimana intera, scopriremo i miti nel corpo, nel percorso Il fascino degli dèi. 4 incontri di yoga e mitologia online. È tutta la vita che creo questo percorso, che cambia continuamente, si evolve con me e con la mia ricerca personale e si rinnova. Non è mai uguale a se stesso perché cambiano e crescono le persone che partecipano. È sempre diverso, in movimento, proprio come la vita. Insegni yoga? Lo sai che puoi trovare la tua vibrazione personale specifica, anche rispettando i dettami della scuola che ti ha formata o formato? Quando guidi le altre e gli altri in modo autentico, genuino, personale, il tuo sostegno alle persone che ti seguono è molto più efficace. Vuoi trovare il tuo approccio speciale insieme a me in un percorso personalizzato solo per te? Contattami per fissare una telefonata esplorativa. Le parole che ho scelto per noi oggi sono di Alejandro Jodorowsky, dal suo Il dito e la luna, racconti Zen, Aiko e Koan. Non si comprende nulla con la testa. Sii te stesso. Smetti di volerti istruire alla maniera degli scolaretti. Conoscere un mucchio di concetti inutili è una cosa. Possedere la propria risposta interiore è tutt'altra cosa. Un grande, grandissimo abbraccio, Laura.